Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nella scorsa puntata abbiamo visto il diverso corso che prendono i destini di Pierre e di Andrei. Il primo, infervorato dagli ideali massonici, cerca, senza riuscirvi se non in parte, di rivoluzionare i suoi rapporti con i contadini e con i dipendenti. Questa cosa invece riesce perfettamente al principe Andrei, che senza proclami o dichiarazioni cambia drasticamente le regole e migliora le condizioni di vita di tutti i suoi lavoratori. Recatosi ad Otradnoye per regolare degli affari col conte Rostov, il principe Andrei vi incontra la giovane Natasha, che sembra risvegliare in lui, depresso e sconfortato, un qualche interesse per la vita. Era già il principio di giugno quando il principe Andrei, tornando a casa, entrò di nuovo nel boschetto di betulle, dove quella vecchia quercia contorta lo aveva così stranamente e memorabilmente colpito. «Sì, qui, in questo bosco, era quella quercia con la quale io mi sentivo in armonia», pensò il principe Andrei. «Ma dov'è?» pensò di nuovo, guardando dalla parte sinistra della strada, e intanto ammirava, senza neppure saperlo, senza riconoscerla, la quercia che cercava. La vecchia quercia, tutta trasformata, spiegatasi come un padiglione di lussureggiante e cupa verzura, si beava, ondeggiando appena sotto i raggi del sole al tramonto. Non più dita contorte né ferite, né senile sfiducia e dolore, non si vedeva più nulla. Attraverso la dura scorza centenaria si erano aperto un varco le giovani foglie succose, sicché era impossibile credere che quel vecchio tronco le avesse generate. «Sì, è la medesima quercia», pensò il principe Andrei, e a un tratto lo invase senza motivo un senso di gioia e di rinnovamento. Tutti i momenti migliori della sua esistenza gli tornarono a un tratto tutti insieme alla memoria. E Austerlitz, col suo alto cielo, e il viso pieno di rimproveri della moglie morta, e Pierre sulla chiatta, e la fanciulla commossa dalla bellezza della notte, e quella notte, e la luna. Tutto ciò gli ritornò improvvisamente alla memoria. No, la vita non finisce a 31 anni, decise ad un tratto, definitivamente, irrevocabilmente, il principe Andrei. Non basta che io sappia tutto quello che c'è in me, bisogna che tutti lo sappiano. E Pierre, e quella fanciulla che voleva volare su in cielo, bisogna che tutti mi conoscano. Che la mia vita non trascorra solo per me, che la loro vita non sia così indipendente dalla mia, che la mia si rifletta su tutti e che tutti vivano insieme con me. Tornato dal suo viaggio, il principe Andrei decise di andare a Pietroburgo in autunno. Si trovava in una delle più acconce situazioni per essere ben ricevuto, nei più alti e più diversi ambienti della società di allora. Il partito dei riformatori lo accoglieva e lo attirava a sé con simpatia, in primo luogo perché aveva la reputazione di uomo intelligente e molto colto, in secondo luogo perché, col dare la libertà ai suoi contadini, si era già creato la fama di liberale. Il partito dei vecchi scontenti, che condannava le riforme, si rivolgeva a lui come al figlio di suo padre, cercandone il consenso per le proprie idee. La società femminile, il mondo, gli faceva liete accoglienze perché era un partito illustre e ricco e un personaggio quasi nuovo con l'aureola della storia romantica della sua creduta morte e della tragica fine della moglie. Oltre a ciò era voce generale di tutti coloro che l'avevano conosciuto prima che egli fosse molto cambiato in meglio durante quei 5 anni, che si fosse temprato e fatto più maturo, che non ci fosse più in lui la dissimulazione, l'orgoglio e l'ironia di una volta, ma bensì quella calma che si acquista con gli anni. Si parlava di lui, interessandosene, e tutti desideravano vederlo. Una settimana dopo, il principe Andrei era membro della commissione per la redazione del codice militare e, quel che mai non si sarebbe aspettato, presidente di sezione della commissione per la redazione delle leggi. In seguito a preghiera di Speransky, egli prese la prima parte del codice civile in elaborazione e, con l'aiuto del Code Napoleon e del codice di Giustiniano, si mise a lavorare alla redazione del libro sui diritti delle persone. Ecco, Speransky è segretario di Stato e referendario dell'imperatore. È un uomo di grande ingegno che, con energia e perseveranza, si era impadronito di un posto di potere. È una figura che inizialmente attrae Andrei perché gli appare come un uomo nuovo, il fautore di una nuova politica, il fautore delle riforme. Intanto anche Pierre arriva a Pietroburgo nella stessa estate del 1809 e noi lo troviamo ora alla testa della massoneria della città. Però egli continua una vita sregolata e insoddisfacente. Sebbene controvoglia, cede alle insistenze dei suoceri e accetta di riprendere con sé la moglie. la quale, non appena si stabilisce a Pietroburgo, si ritrova al centro di un gruppo dell'alta società partigiano dell'Alleanza Napoleonica. Pierre era proprio il marito che ci voleva a quella brillante donna di mondo. Egli era quell'originale, sempre distratto, quel marito grand seigneur che non dava noia a nessuno e non soltanto non guastava l'impressione generale data dall'alto livello del salotto, ma, col contrasto che faceva all'eleganza e al tatto della moglie, serviva utilmente da sfondo. Pierre, a cagione delle sue occupazioni che si erano concentrate in quei 2 anni su interessi immateriali e del suo sincero disprezzo per tutto il resto, aveva assunto nell'ambiente di sua moglie, che non gli interessava, quel tono di indifferenza e di negligenza, benevolo per tutti, che non si acquista artificialmente e che ispira un involontario rispetto. Egli entrava nel salotto di sua moglie come in un teatro, conosceva tutti, vedeva tutti con lo stesso piacere, aveva per tutti la stessa indifferenza. Fra i molti giovani che andavano giornalmente in casa di Hélène, Boris Drubetskoy, che già era molto avanti nella carriera, era, dopo il ritorno di Hélène da Erfurt, la persona più intima in casa Bezukhov. Hélène lo chiamava Mon Page e lo trattava come un ragazzo. Il suo sorriso, quando gli si rivolgeva, era uguale a quello che aveva per tutti, ma qualche volta a Pierre quel sorriso era antipatico. Boris trattava Pierre con un rispetto speciale, dignitoso e triste. Anche questa sfumatura nel suo rispetto inquietava Pierre. Pierre aveva così dolorosamente sofferto 3 anni prima dell'offesa fattagli dalla moglie che ora si sottraeva alla possibilità di un'offesa simile, in primo luogo col non essere marito di sua moglie e in secondo luogo col non permettersi alcun sospetto. Agli occhi del mondo, Pierre era un gran signore. Il marito, un po' cieco e ridicolo, di una donna celebre, un originale intelligente che non faceva nulla ma non nuoceva a nessuno, un bravo e buon ragazzo. E invece, nell'anima di Pierre, in tutto quel tempo, si compiva un complicato e faticoso lavorio di sviluppo interiore che gli rivelò molte cose e lo condusse a molti dubbi e a molte gioie spirituali. La situazione economica dei Rostov frattanto inizia a scricchiolare e proprio in questo frangente la figlia maggiore Viera, la meno amata in famiglia, viene chiesta in matrimonio dall'ufficiale Berg, che è il figlio di un oscuro gentiluomo di Livonia, e la domanda viene subito accettata. E a questo proposito c'è tutto un episodio relativo alla dote di Viera che mette in imbarazzo il vecchio conte e che purtroppo qui non abbiamo il tempo di leggere per esteso. Mi auguro che qualche ascoltatore incuriosito possa andare a cercarlo. Effettivamente, anche noi lettori proviamo un po' lo stesso imbarazzo del conte Rostov, che si sente un po' in colpa di amare un po' di meno questa figlia Viera. Però, inevitabilmente, siamo più attratti tutti da Natasha, a cui torniamo adesso con la nostra lettura. Natasha aveva 16 anni e si era nel 1809, proprio l'anno che ella aveva fissato come termine, contando sulle dita, 4 anni addietro, dopo aver scambiato il bacio con Boris. Da allora non l'aveva più veduto. Davanti a Sonia e alla madre, quando il discorso cadeva su Boris, ella diceva con piena tranquillità, come una cosa stabilita, che quanto era avvenuto allora era una ragazzata, della quale non metteva conto neppure di parlare e che da un pezzo era dimenticata. Ma nel più profondo segreto dell'anima sua era tormentata dal dubbio se il suo impegno con Boris fosse uno scherzo o una promessa seria e impegnativa. Dal momento in cui Boris nel 1805 era partito da Mosca per raggiungere l'esercito, non aveva più visto i Rostov. A Natascia alle volte veniva in mente che egli non volesse vederla, e queste sue supposizioni erano confermate dal tono triste col quale parlavano di lui i grandi. «Al giorno d'oggi si dimenticano i vecchi amici», diceva la contessa quando si nominava Boris. Anna Mikhailovna, che negli ultimi tempi andava più di rado dai Rostov, si comportava anche lei in modo particolarmente dignitoso e ogni volta parlava con entusiasmo e con riconoscenza dei meriti di suo figlio e della brillante carriera che egli stava facendo. Quando i Rostov vennero a Pietroburgo, Boris fece loro una visita. Egli andò da loro non senza una certa emozione. Il ricordo di Natascia era il più poetico dei ricordi di Boris, ma con tutto ciò egli ci andò con la ferma intenzione di far capire chiaramente e a lei e ai suoi congiunti che le relazioni di infanzia fra lui e Natascia non potevano formare un impegno né per lei né per lui. Egli aveva una brillante posizione in società grazie alla sua intimità con la contessa Bezukhova, una brillante posizione in servizio grazie alla protezione dell'alto personaggio di cui godeva la piena fiducia, e aveva in germe dei progetti di matrimonio con una delle più ricche fanciulle di Pietroburgo, i quali molto facilmente avrebbero potuto diventare realtà. Quando Boris entrò nel salotto dei Rostov, Natascia era nella sua camera. Saputo del suo arrivo, essa scappò, tutta rossa in salotto, illuminata da un sorriso più che tenero. Boris si ricordava la Natascia in vestito corto, coi neri occhi lucenti sotto ai riccioli e con le sue furiose, fanciullesche risate che egli aveva conosciuta 4 anni prima. E quando entrò una Natascia assolutamente diversa, rimase confuso e il suo viso assunse un'espressione di entusiastica meraviglia. Natascia sedette e, senza entrare nel discorso di Boris con la contessa, guardava in silenzio il suo fidanzato d'infanzia, osservandolo fino nei minimi particolari. Egli si sentiva addosso il peso di quello sguardo ostinato e affettuoso, e di tanto in tanto le gettava un'occhiata. L'uniforme, gli speroni, la cravatta, la pettinatura di Boris, tutto era all'ultima moda, e Natascia lo notò subito. E stette tutto il tempo seduta in silenzio, guardandolo di sottecchi. Questo sguardo agitava e turbava sempre più Boris. Egli si voltava più spesso a guardarlo e interrompeva i suoi racconti. Rimase non più di 10 minuti e si alzò, salutando. Sempre gli stessi occhi curiosi, provocanti e un po' canzonatori lo fissavano. Dopo la sua prima visita, Boris si disse che Natascia per lui era seducente come prima, ma che egli non doveva abbandonarsi a questo sentimento, perché sposare lei, una ragazza quasi senza fortuna, sarebbe stato la rovina della sua carriera, e il rinnovare le antiche relazioni senza l'intenzione di sposarla sarebbe stato un'azione ignobile. Boris decise fra sé di sfuggire ogni incontro con Natascia, ma a dispetto di questa decisione ci andò dopo alcuni giorni e ci tornò spesso e passava giornate intere dai Rostov. Ogni giorno si allontanava di più dal suo proposito. Natascia, secondo quanto osservavano la madre e Sonia, pareva innamorata di Boris come un tempo. Gli cantava le sue canzoni favorite, gli mostrava il proprio album, lo obbligava a scriverci, non gli permetteva di ricordare il passato, facendogli intendere come fosse bello il presente, e ogni giorno egli se ne andava con la testa annebbiata, senza avere detto ciò che aveva intenzione di dire, senza sapere lui stesso quel che faceva, perché ci andava e come la cosa sarebbe finita. Boris aveva smesso di andare da Hélène, riceveva ogni giorno dei biglietti di rimprovero da lei e tuttavia passava giornate intere dai Rostov. Una sera, che la vecchia contessa, in cuffia da notte e camiciola, senza i suoi boccoli finti e con una sola povera ciocca di capelli che le usciva di sotto alla cuffia bianca, sospirando e tossicchiando, faceva sul tappetino accanto al letto le genuflessioni della sua preghiera serale, la porta scricchiolò ed entrò correndo Natascia, coi piedi nudi nelle pantofole, anche lei in camiciola e coi capelli incartocciati. La contessa la guardò e corrugò le sopracciglia. Vedendo che la madre pregava, in punta di piedi scappò verso il letto, strisciò lestamente con un piedino sull'altro, si levò le pantofole e saltò su quel giaciglio che la contessa temeva potesse essere la sua tomba. Questo giaciglio era alto, con la materassa di piume e 5 guanciali, uno più piccolo dell'altro. Natascia dette un balzo, Affondò nella materassa di piume, si voltò verso il muro e cominciò a rigirarsi sotto la coperta, stendendosi, tirandosi le ginocchia fin sotto al mento, agitando le gambe e ridendo zitta zitta, ora nascondendosi la testa, ora guardando la madre. La contessa terminò la sua preghiera e con viso severo si avvicinò al letto, ma vedendo che Natascia aveva nascosto la faccia, sorrise del suo buono, indulgente sorriso. «Su, su, su», disse la madre. «Mamma, possiamo parlare un poco, eh?» disse Natascia. «Via, una buona volta a cuore aperto, su, ancora una volta, e basta». E circondando con le braccia il collo della madre, la baciò sotto il mento. Nei suoi rapporti con la madre, Natascia mostrava una bruschezza esteriore di modi, ma era così delicata e svelta che in qualunque maniera stringesse con le braccia la madre, sapeva sempre farlo in modo da non farle sentire né dolore, né fastidio, né incomodo. «Ebbene, che c'è stasera?» disse la madre, accomodandosi sui guanciali e aspettando, mentre Natascia, dopo aver fatto due capriole, si coricava accanto a lei sotto la stessa coperta, mettendo le braccia fuori e prendendo un'espressione seria. Queste visite notturne di Natascia, che avvenivano prima che il conte ritornasse dal club, erano uno dei piaceri più graditi per la madre e per la figlia. «Che c'è stasera?» «E io dovevo dirti...» Ma Natascia tappò con la mano la bocca alla madre. «Di Baris, lo so», disse seria. «Sono venuta per questo. Non parlate, lo so». «No, via, dite». E tolse la mano. «Dite, mamma, è simpatico?» «Natascia, tu hai 16 anni. Alla tua età io ero già maritata. Tu dici che Baris è simpatico. È molto simpatico. E io gli voglio bene come a un figlio. Ma che cosa vuoi? Che cosa pensi? Tu gli hai fatto proprio girare la testa, lo vedo». Natascia ascoltava e rifletteva. «Ebbene, che c'è?» disse. «Tu gli hai fatto proprio girare la testa. E perché? Che vuoi che faccia? Lo sai che per te è impossibile sposarlo. Perché?» disse Natascia senza cambiare posizione. «Perché è giovane, perché è povero, perché è tuo parente, perché tu stessa non lo ami. E come lo sapete? Lo so, questo non va bene, cara. E se voglio così?» disse Natascia. «Smetti di dire sciocchezze», disse la contessa. «Ma se voglio così, Natascia, sul serio, io...» Natascia non la lasciò finire. Tirò a sé la grossa mano della contessa e la baciò di sopra, poi sulla palma, poi di nuovo la rivoltò e si mise a baciarla sulla nocca della falange superiore, poi in mezzo alle dita, poi di nuovo sulla nocca, aggiungendo sottovoce «Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, parlate, mamma, perché state zitta? Parlate!» disse, gettando un'occhiata alla madre, che guardava la figlia con un tenero sguardo e in quella contemplazione pareva avesse dimenticato tutto ciò che voleva dire. «È una cosa che non va, anima mia. Non tutti capiscono la vostra intimità d'infanzia, e vederlo così amico con te può farti del male agli occhi degli altri giovani che vengono da noi e, soprattutto, può tormentarlo inutilmente. Forse si era già trovato un buon partito, ricco, e ora perde la testa». «La perde?» ripeté Natascia. «Ti dirò quello che accadde a me. Avevo un cugino, lo so, ma è un vecchio, no?» «Non è sempre stato vecchio». «Ma ecco quello che farò, Natascia. Parlerò a Baris. Non è necessario che venga così spesso». «Perché non è necessario, se vuole così?» «Perché so che questa cosa andrà a finire in nulla». «Come lo sapete?» «No, mamma, non gli parlate». «Che sciocchezze», disse Natascia, col tono di una persona alla quale vogliono togliere ciò che possiede. «Ebbene, non lo sposerò, ma intanto lasciatelo venire, se fa piacere a lui e fa piacere a me». Natascia guardò la madre sorridendo. «Non lo sposerò, ma così», ripeté. «Ma che significa, cara?» «Sì, così. Su, che importa che non lo sposi? Invece no, così». «Così, così», ripeté la contessa, e scotendo tutto il corpo cominciò a ridere del suo buon riso brusco di vecchia. «Basta ridere, smettetela», gridò Natascia. «Scotete tutto il letto. Mi somigliate straordinariamente. Siete una ridarellona come me. Aspettate». Prese tutte e due le mani della contessa, su di una baciò la nocca del mignolo, giugno, e seguitò a baciare luglio e agosto sull'altra mano. «Mamma, ma lui è molto innamorato. Che ve ne pare? Di voi erano innamorati così? Ed è tanto simpatico, tanto carino, tanto simpatico, solo che non è del tutto di mio gusto. È sottile, come l'orologio della sala da pranzo. Non capite? Sottile, sapete? Grigio, chiaro». «Quante sciocchezze», disse la contessa. Natascia seguitò. «Davvero non capite? Nikolenka avrebbe capito. Bezukhov, quello lì è turchino, turchino scuro con del rosso ed è quadrato». Tu fai la civetta anche con lui, disse ridendo la contessa. No, lui è framassone, l'ho saputo. È un bravo uomo, turchino scuro o con del rosso. Come posso spiegarvelo? Contessa cara, si udì la voce del conte dietro la porta. Non dormi? Natascia saltò giù scalza, pigliò in mano le pantofole e scappò in camera sua. Ma per un pezzo non si poté addormentare. Pensava che nessuno mai avrebbe potuto capire tutto quello che capiva lei e quello che era in lei. Sonia? Pensava, guardando la gattina che dormiva raggomitolata con la sua enorme treccia. No, ma che? È virtuosa, è innamorata di Nikolenka e non vuole sapere d'altro. La mamma, anche lei, non capisce. È straordinario come sono intelligente. E com'è carina, seguitò, parlando di sé in terza persona e immaginando che lo dicesse di lei un uomo molto intelligente, il più intelligente e il migliore degli uomini. Tutto, tutto c'è in lei, continuava quest'uomo. È intelligente, molto simpatica, e poi bella, molto bella, e agile, nuota, monta a cavallo alla perfezione, e una voce meravigliosa, si può ben dire. Ella canticchiò la sua frase musicale preferita di un'opera di Cherubini. Si buttò sul letto, ridendo di gioia all'idea che subito si sarebbe addormentata. Gridò a Dunyasha di spengere la candela e Dunyasha non era ancora uscita dalla stanza che ella era già entrata in un altro mondo, più felice, in quello dei sogni, dove tutto era facile e bello come nella realtà, ma più bello ancora perché diverso. Il giorno seguente la contessa, avendo invitato Boris a venire da lei, gli parlò e da quel giorno egli smise di andare dai Rostov. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.